mentre l'allatto con una pisciata che sorretta in fronte delimita senza dubbio un sogno di possesso da serrata mente, retta avaria dissemina le cose che spolvero come trofei tipo le tue zanne d'avorio. Allora le cose simpatiche e colorate che attendono in cucina il mio risveglio azzurrino in freddo lito vengono sbugiardate allegramente da un bastardino che le penetra da dietro scodinzolando grande corpo all'ombra del quale riparo offrendomi di schiena come donna sgombrata una mesta modesta bellezza cicladica grande madre di terra caucaustica e pura più di quelle con le acque scure le madonne brune. Innocente travaglio di pancia vuoto, pancia senz'ombra, di dubbio ingenuo, esponente, bionde curve al posto di cose messe nel cantiere frigorifero ad avariare insieme.